Solo informazione, letture, provocazioni, musica. Nel giro di 5 minuti l'Inzet ha raggiunto i rinforzi e riporta gli ordini del generale. Il mini esercito avanza in direzione della torre M, armati fino ai denti, mentre l'Inzet li accompagna dall'alto. Arrivati a circa 200 metri dal corteo dei rivoltosi, l'Inzet fa fermare gli uomini topo. Aspettate qui, vado alla torre M e avviso che ci siamo. Dopo qualche minuto l'Inzet è di ritorno. Avanziamo, mettete da parte i manganelli e battuti. Arrivate a poche decine di metri, iniziate a sparare contro i rivoltosi che scapperanno verso la torre M e lì troveranno la loro pace eterna. Il corteo di Tarspok inizia ad avanzare lentamente e dopo pochi minuti sono già a circa 50 metri dai rivoltosi, i quali iniziano a trascinare per strada qualsiasi cosa che li possa servire come barricata. I rivoltosi sono spaventati, ma nemmeno più di tanto. Ovviamente hanno capito subito che si tratta di una trappola e quindi, dopo un breve consulto tra gli intossicati e qualche figura più determinata tra la popolazione, si organizza la difesa. Il corteo di rivoltosi si spezza in due parti, separati da una sorta di gap di circa una ventina di metri. Una parte fronteggia i rinforzi dei Tarspok, l'altra gli uomini topo che sono a guardia della torre M. Nel mezzo si forma un gruppo di persone che avrà la stessa funzione di un cavo telefonico per avvisare da una parte all'altra cosa sta accadendo. I rivoltosi non dispongono di tante armi e le uniche che hanno sono quelle sottratte alle loro vittime. Ma all'improvviso sembra che la fortuna si ponga dalla loro parte. Da una strada che scende quasi perpendicolarmente a tagliare il corteo dei rivoltosi stanno arrivando gli assaltatori della Torre G, preceduti da due camion dei Tarspok pieni di armi recuperate dalla stessa torre. Un paio di rivoltosi si staccano dal gap e raggiungono i loro rinforzi per avvisarli di quanto sta accadendo. Igen, uno dei capi rivolta tra gli intossicati, riconosce alla guida di uno dei due camion uno dei suoi uomini. Cosa avete nei camion? Armi, armi e armi. Anche qualche scorta alimentare dei topolini ancora vivi. Non c'è tempo per mangiarli, ammazziamoli e basta, siamo in trappola e ci servono le armi. Ok, entriamo nel corteo con i camion e iniziamo a distribuirle. Bene, i due camion entrano nella zona gap ed iniziano la distribuzione delle armi. Igen, abbiamo anche dell'esplosivo, ne è tanto, hai idea di come utilizzarlo? Fammici pensare qualche istante. Intanto, dalla torre M, Navig ha visto tutto. Figli di puttana, zombie di merda, ma che cazzo aspettano i rinforzi ad attaccare? Nemmeno il tempo di pronunciare l'ultima frase che sente esplodere i primi colpi. Una decina di rivoltosi, di quelli che si trovano sulle barricate presi alla sprovvista, restano uccisi sotto i proiettili dei Tarspok. La risposta non tarda ad arrivare e da dietro le barricate le lingue di fuoco che fuoriescono dai fucili sono dirette contro i Tarspok. Dopo qualche minuto i Tarspok a guardia della torre M iniziano anch'essi a sparare. È una vera e propria guerra quella in atto. Sì, pezzi di merda, massacramoli tutti! Navig è quasi in preda ad un orgasmo mentre guarda dalla finestra lo scontro armato tra le due fazioni che sta vedendo prevalere i Tarspok, anche perché sono in numero superiore rispetto ai rivoltosi. Se la gode il generale fino a quando un razzo esploso dai suoi rinforzi entra dalla finestra dell'ufficio disintegrandone i vetri. Ma porca troia, ma che cazzo fanno quei coglioni? Sparano contro di noi? Poi si rivolge ad un Tarspok che gli ordina: manda tutti gli uomini che abbiamo a disposizione fuori, avvisali che tanto devono rientrare nella torre M quando hanno finito di sterminare tutti i rivoltosi. Sì, signore generale. Gli altri graduati Tarspok sono impietriti, non riescono nemmeno a parlarsi tra di loro per far placare la furia di Navig che non è per certo che li porterà alla salvezza. Generale, non esageriamo, finalmente uno dei suoi colleghi ha il coraggio di parlargli. Attaccarli sì, difenderci sì, ma non possiamo fare una strage. Da che parte è lei? Con i rivoltosi per caso? l'atto graduato non risponde alla provocazione del generale, abbassando lo sguardo, e allora stia zitto e faccia fare a chi ha più esperienza in questa, con questa melma. Zero, 0 3 12. Radiazione 10 dicembre 2014, oggi lunedì, è oggi mercoledì lunedì, ma è lunedì. Lunedì non c'è stato, non perché porca Madonna, ma però siamo slittati. Che oggi è lunedì, quindi diretta d'azione che prevede controinformazione, ma soprattutto le letture. Abbiamo iniziato come di consueto con la lettura di Nazaro 13 e si continuerà per tutta la diretta in alternata con la controinformazione, con la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole scrivere o mandare mail a Radiazione con materiale da poter far pubblicare sul sito, oppure consigli sui libri futuri da leggere su Radiazione. Poi non vi lamentate. Sì, altrimenti se li scegliamo noi. Oppure mandare anche materiale tipo buscoli, CD, manifesti, tutto il materiale che volete che possa circolare attraverso il sito di Radiazione o altri siti, con un download gratuito, perché le idee non hanno prezzo. Poi dopo spiegheremo anche di un nuovo buscolo che è uscito da Edizioni Radiazione. Allora, invece il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare i podcast delle vecchie dirette d'azione attraverso la pagina podcast Radiazione, oppure scaricarvi materiale, come dicevo prima, da materiale messo a disposizione da altri compagni o da Radiazione gratuitamente, quindi opuscoli, CD e roba varia. La radio trasmette su Anarchia, su anarchia.net, il server messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che ringraziamo e salutiamo sempre. Allora, abbiamo detto tutto, diciamo una piccola notizia subito, breve e buona. Nikos Romanos oggi ha terminato lo sciopero della fame, quindi gli è stato concesso l'uscita dal carcere, però tramite il braccialetto elettronico. Per ora queste sono le notizie che si hanno, poi quando ci saranno aggiornamenti verranno pubblicati, oppure se saranno già in corso durante la diretta le faremo sapere. Ora ci ascoltiamo un brano degli Algorithm, il brano Handshake, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura di Sergiu Piasecki con Nessuno ci salva. We'll be right back. nessuno ci salva. Sergio Spiasecki, chi si è messo in collegamento ad ascoltare radioazione.org ha sentito le letture che hanno, con cui abbiamo finito l'ultima diretta d'azione di un paio di lunedì fa, abbiamo saltato una o due lunedì fa, per cui non starò oltre modo a tediarvi e ricominciamo immediatamente da I dispiaceri di Pavka e L'etica di Tommaso Ciurditz. Paolo Inca si riebbe dallo svenimento con un bicchiere di acqua fredda in faccia, aprì gli occhi e con terrore si vide ancora davanti il suo amante. Baran si era legato strettamente il braccio sotto il gomito per fermare il sangue che sgorgava copiosamente dalla ferita, avvolgendola poi con un fazzoletto. Infine infilò la giacca, prese il berretto e, senza guardare in faccia Pavka, uscì. Ella rimase sdraiata per un po' di tempo, temendo di dover ritornare, di veder ritornare Baran da un momento all'altro, ma ciò non avvenne. Allora si alzò e andò nella sua stanza. Si guardò nello specchio e indietreggiò con orrore. Il volto, il collo e il petto erano lordi di sangue. Ma subito si tranquillizzò, ricordandosi che quel sangue era di Oleg, non suo, e mormorò a denti stretti un'imprecazione. «Canaglia! Non te la perdonerò mai!» Mise in ordine la stanza, si tolse la camicetta e si lavò con cura. Il giorno passò e venne la sera, ma Baran non si fece vivo. L'indomani Pavka si imbatté Jan e gli chiese se sapesse dove Oleg avesse passato la notte, ma il ragazzo cascò dalle nuvole. Il quarto giorno dell'assenza di Oleg, Pavka indossò il suo abito più elegante, infilò la giacca di persiano e si recò da Ibala. Lungo la strada rifletté sui casi suoi. «Mi ha abbandonata o l'hanno beccato?» E quest'ultima ipotesi le sembrava davvero più verosimile. Non poteva credere che Oleg l'avesse piantata. Era così innamorato di lei. Ma dai Bala non la finirono più di ammirare la sua eleganza e ciò lusingò moltissimo la ragazza. Tornò tardi a casa, ma di Oleg nessuna traccia. Per tutta la notte non riuscì a chiudere occhio, rimuginando sempre lo stesso pensiero. Che cosa avrebbe fatto se Oleg l'avesse davvero abbandonata? Ma in fin dei conti non c'era Tolus, che l'aveva sempre colmata di premure e di gentilezze. Decise di recarsi da lui. Beh, se dovessi rimanere sole, forse mi prenderebbe con sé. Un po' di denaro ce l'aveva e non le mancavano certo gli oggetti di valore. Potremmo aprire insieme un negozio di parrucchiere, non gli farei far fare brutte figure. Sono bella e saprei benissimo fare. Oleg era innamorato, pazzo di me. E perfino quest'ultimo gesto che ha fatto gli è stato dettato dalla sua passione. Posso benissimo stare accanto a Tolus senza sfigurare. E non è detto che non leggerei i libri che egli tanto ammira, se questo dovesse fargli piacere. Fantasticando così, Pavka si addormentò. Il mattino seguente, appena alzata, si mise il suo abito migliore e si recò da Tolus. Quando giunse davanti al negozio, notò che non c'era dentro neppure un cliente, quindi col suo più affascinato sorriso spinse la porta e entrò. «Oleg! No, Tolus, tesoro mio, scusami se sono stato tanto tempo senza venire da te, ma ho avuto tanto da fare!» Pavka non ebbe neppure il tempo di finire la frase. Tolus, che al momento del suo ingresso stava riordinando la vetrina dei cosmetici, si voltò di scatto e fissò in volto la donna con due occhi sbarrati. Finalmente sporse avanti il petto con sussiego, alzò il mento e indicò a Pavka con un gesto imperioso la porta. «Madama, si degni di sgomberare il locale, e subito, capito?» Pavka, sbalordita, non si mosse. «Beh, ma che ti salta in mente, Tolus? Torna in te!» Un filo di bava apparve agli angoli della bocca del parrucchiere. «Fuori di qui, ho detto, via!» gridò istericamente. «Il mio locale è per i clienti per bene, non per le sgualdrine come te. Fila via di corsa o altrimenti chiamo la polizia!» Pavka, Paolinka, comprese che il suo amante non stava affatto scherzando, tanto più che era balzato verso di lei e con modi tutt'altro che aristocratici la spingeva verso la porta. «Esci!» urlò. «Esci! E che non ti veda mai più, bagascia della malora!» Asciugandosi le lacrime con un fazzolettino, Pavka ritornò a casa, pianse a lungo. Tholus, il suo dio, il suo sogno, il suo ideale, così colto, così fine, così intelligente, l'aveva trattata in modo così oltraggioso. A poco, l'odio si fece strada nel suo cuore. E passarono lunghe ore durante le quali meditò sulla propria vita, giungendo a questa conclusione. Olek, il tanto disprezzato Olek, era stato molto più buono con lei. Avrebbe potuto suonarmele di santa ragione quel giorno, anzi, avrebbe potuto uccidermi, e invece ha colpito se stesso. È tutto per colpa di quel farabutto. E dove se n'è andato ora? Si sarà tolto la vita. E io, poveretta, che cosa farò? Forse non tornerà mai più. E pensare che stava proprio per comprarmi un orologetto d'oro. Oh, metta pina, oh, come sono infelice! E continuava a piangere, commuovendosi sempre di più sul suo triste destino. Passò una settimana senza che avesse la minima notizia di Olek. E non sapeva più cosa pensare. Finalmente, al colmo dell'esasperazione, decise di tornare dai suoi. Ma quando giunse a casa, trovò la famiglia a tavola. E Tommaso, vedendola entrare, aggrottò le sue ispide sopracciglia. «Beh, che cos'è che cerchi qui?» Le lacrime cominciarono a sgorgare dagli occhi di Pavka. «Babbo, sono tanto infelice!» «Oh, bella! Tu stessa hai aizzato quel bruto contro tuo padre, adesso vieni qui a frignare!» Infelice, ma guardatela come se non gli fosse corsa dietro lei di sua propria volontà. Girò intorno lo sguardo in cerca di una correggia, ma subito si frenò, ponendosi una domanda alquanto ridicola: come poteva frustare una donna che portava una pelliccia così lussuosa? Beh, dunque, che cosa vuoi? Parla, brontolò allora cupo. Beh, son venuta dalla mamma, sospirò lamentosamente Pavka. Vieni qui, tuonò Churditz, e voi altri, fuori dai piedi! Stascia e io e Julek se la squagliarono in un batter d'occhio, mentre Pavka sedeva docilmente a tavola e taceva, continuando a lacrimare. Dunque, ringhiò suo padre. Imbrogliandosi mentre parlava, la ragazza raccontò ai genitori ciò che era accaduto tra lei e l'amante. Disse che Olek le aveva fatto una scenataccia di gelosia e che si era ferito al braccio con un coltello. Naturalmente non fece parola di Tholus. Poi l'amante l'aveva lasciata e non si era più fatto vivo per tutta la settimana. Si osservava con gli occhi socchiusi e un sorriso ironico alla figlia, e quando questa ebbe finito il suo racconto, egli incominciò a parlare con una calma così insolita che fece trasecolare la moglie e la figlia. Lo so che è un ladro, e perciò non è certo un fesso. Tu però dovevi sapertelo tener buono e mungerlo come una vacca invece di andare a letto col primo cretino che ti è capitato tra i piedi. Credevo che avessi ereditato un tantino del mio cervello, ma che? Quanto al tuo ganso deve essere un po' scemo, perché invece di ridurti in poltiglia ha fatto del male a se stesso. Forse l'amore l'ha rimbecillito fino a questo punto. Potresti notar nell'oro se ci avessi saputo fare, e invece che cos'è che ci hai guadagnato? Beh, ho tanti bei vestiti, della biancheria fine, degli anelli di valore, una pelliccia di persiano, si giustificò timidamente Pavka. E di quattrini quanti ne hai? Pochi. Pochi, la schernì suo padre. Aspetta che ti strappo d'addosso quella pelliccia e ti concio per le feste, così imparerai a vivere una buona volta. Avevi una miniera d'oro e ci hai sputato sopra, cretina! Pavka cominciò a piangere di nuovo. «Finiscila con quelle lacrime da coccodrillo!» urlò Tommaso. «Ascolta invece quello che ti dico e ficcatelo bene in testa. Sono sicuro che il tuo cascamorto tornerà, oppure io non sono più tuo padre. Torna a casa e aspettalo. E quando lo vedi arrivare, corrigli incontro con moine e carezze e spremegli fuori tutto quello che puoi. Chi deve pagare, se non un ladro? Bisogna però avere un po' di sale in zucca e fare in modo che lui creda di darti tutto di sua spontanea volontà e non perché tu lo mungi. Ecco, dopo 6 mesi che vivi con lui, che cosa ne hai ricavato? Un'altra. Al tuo posto avrebbe messo da parte un patrimonio, ma tu una pelliccia. Ma fila a casa, metti tutto in ordine, aspettalo, e quando viene ricevilo come un principe, chiedigli perdono e, se occorre, buttati in ginocchio. Del resto sai meglio di me cosa deve far fare una cagna per attirare il maschio. E soprattutto, Mi raccomando, fagli da mangiare bene, preparagli i piatti che preferisce, chiedigli sempre come sta di salute. Non ti proibisco nello stesso tempo di mandarlo all'inferno in cuor tuo, ma se ti comporterai come ti ho detto, avrai il suo danaro e anche la sua pellaccia. Beh, e ora, fuori dai piedi, e ricordati che se non imparerai a vivere e verrai qui un'altra volta a piagnucolare, ti farò il sedere nero come il persiano che hai indosso. Mai, in vita sua, Shurditz aveva parlato alla figlia così a lungo e con tanta calma. Madre e figlia ne erano strabiliate. Era la prima volta che egli dava lezioni di etica, di psicologia e di tattica. Pavka se la studiò a memoria quella lezione e sì, decise di metterla in pratica. Cover me! Questi erano Second Voice con il brano Cover Me. Ora, dopo la prima lettura di oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spasecki, si passa alla controinformazione. Abbiamo iniziato subito dando la notizia della fine dello sciopero della fame di Nikos Romanos in Grecia. Però diamo anche gli aggiornamenti dei giorni scorsi, un po' quello che è accaduto nei giorni scorsi, ma fino a poche ore fa, quando è stata accordata l'uscita a Nikos dal carcere per gli studi. Allora, Nikos Romanos è un prigioniero dello Stato a partire da duplice esproprio di una banca e di un ufficio postale Elta a Veventos, Kozani, il 2 gennaio 2013. L'azione è parte di una lotta anarchica polimorfa contro i responsabili del saccheggio che Stato e Capitale effettuano sull'intera società. Le scelte politiche e la lotta di Nikos Romanos seguono la rivolta del 2008. Lui si sta battendo per un mondo senza potere, sfruttamento e padroni. La lotta del prigioniero è un sciopero della fame per un soffio di libertà e contro la brutalità del confinamento e dell'intensificazione della repressione punitiva, blocco e rifiuto delle licenze, generalizzazione dello stato di isolamento, prigioni di tipo C, a fianco della lotta di tutti gli oppressi contro la repressione e lo sfruttamento delle loro vite. Il medico che ha seguito compagno ha rilevato che Nikos è stato esaminato da uno psichiatra che ha diagnosticato che non ha malattie mentali né tendenze suicide, per cui non c'era per lui la necessità di sostanze psicotrope o alimentazione forzata. Lo stesso medico ha avuto la difficoltà ad avere accesso all'ospedale, benché avesse ripetutamente certificato di essere medico personale di Nikos. Aggiornamenti fino al 10, invece poi si è saputo che martedì 9 dicembre il pubblico ministero della Corte Suprema Vasiliki Theodorou ha nuovamente respinto le richieste di permessi di studio. Nella giornata di lunedì Samaras, primo ministro, ha incontrato i genitori del compagno cercando di far loro pressioni affinché facessero retrocedere il figlio dallo sciopero della fame. Nella notte tra lunedì e martedì la legge su braccialetto elettronico per i detenuti proposta da Siriza, KKE e Dimar è stata rigettata. Costituiva l'ultima scappatoia legale per lo Stato greco per concedere i permessi di studio dal ministro. Questa è stata rifiutata dal ministro di giustizia Athanasiou. Secondo quanto dichiarato dai media e dal suo avvocato Nikos nella mattina di mercoledì, e quindi oggi era intenzionata ad iniziare anche uno sciopero della sete. Il compagno aveva già perso 20 kg e mezzo fino ad oggi, smettendo di idratarsi c'erano possibilità che non superava le 48 ore. Nella notte è circolato un appello urgente per un presidio di solidarietà davanti al Parlamento greco in piazza Sintagma. E poi dopo la notizia con cui abbiamo aperto oggi la diretta, Nikos è stato concesso il permesso di uscita per seguire i corsi all'università, però questo avverrà tramite braccialetto elettronico. Queste sono le ultime notizie sugli aggiornamenti. Poi se ci saranno aggiornamenti per capire meglio come funzionerà l'uscita dal carcere di Nikos, questo ci faranno sapere i compagni greci e quindi provvederemo a tradurre e a pubblicare gli aggiornamenti. Ora ci ascoltiamo un brano di Aloblack, il brano è Nothing to Lose, e poi dopo si torna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Dal canto suo, appena uscito di casa, Oleg si recò innanzitutto da un medico di sua conoscenza, amico dei diritti, e sempre pronto a venir loro in aiuto. Lo chiamavano Bravo, perché soleva ripetere spesso questa stessa parola. «L'hanno proprio conciata per le feste, disse quando ebbe esaminato la ferita di Baran. «Beh, me la son fatta da me», disse Oleg. Bravo lo sbirciò, incredulo, corrugando la fronte. Gli medicò il braccio e gli disse di tornare 2 giorni dopo. «Credevo per il disturbo», chiese Oleg. «Quello che vuole, anche nulla, anzi, se ha bisogno, le posso prestare io un po' di denaro». Era il sistema di Bravo, prendere quello che gli davano e se occorreva aiutare lui i suoi clienti. E questo sistema si dimostrava ottimo perché i diritti, che venivano curati e assistiti da lui nei momenti scabrosi, per riconoscenza, appena trovavano modo di procurarsi del denaro, ricambiavano generosamente il loro benefattore. Era uno strano tipo Bravo. Mingherlino, con la testa completamente pelata, aveva circa 50 anni, ma sembrava molto più vecchio. La pelle del viso era olivastra e incartapecorita, ma su quel brutto volto spiccavano 2 occhi buoni e ingenui, quasi infantili. Bravo era stato a suo tempo un medico presso un ospedale militare in Siberia, poi, per certi intrighi non del tutto puliti, era finito in galera e liberato in seguito ad un'amnistia. Girò in lungo e in largo tutta la Siberia e varcò anche le frontiere della Cina e della Manciuria. Finalmente capitò con la moglie, figlia di un deportato originario di Minsk, in questa città dove nel 1910 rimase vedovo. Egli era conosciutissimo da tutta la povera gente di Minsk. Non aveva, certo, la licenza per esercitare la sua professione, ma tutti si rivolgevano ugualmente a lui nei casi difficili e Bravo interveniva sempre quando già gli altri medici si erano dati per vinti. Un po' la fortuna lo assisteva, un po' l'autosuggestione dei pazienti che avevano una cieca fiducia nell'efficacia delle sue cure. Il fatto sta che i suoi ammalati guarivano quasi sempre e all'occorrenza Bravo praticava anche l'esorcismo. Bravo aveva un debole per i ladri, forse perché egli stesso per vari anni era stato rinchiuso in una cella e li aiutava in tutti i modi ed era chiamato da loro, oltre che Bravo, anche Babbo. Si erano anche dati dei casi in cui i ladri erano andati da lui affidandogli la soluzione delle loro controversie, come da un giudice. In simili casi Bravo pronunciava la sentenza più giusta possibile, guadagnandosi una fiducia illimitata nel mondo dei diritti. Oleg tirò fuori il portafoglio con l'intenzione di pagare la visita, ma, si accorse di essere senza soldi. Si confuse fino ad arrossire perché considerava vergognoso essere in bolletta. Che cosa si può dire di un ladro completamente al verde? Come minimo che un codardo, uno stupido oppure uno scroccone. Bravo, notando l'imbarazzo di Oleg, lo prese dal braccio e gli disse con affidabilità: «Le dirò una cosa, signor Baran, non vada in nessun posto per ora, rimanga qui in casa mia per qualche giorno, la sua ferita non è grave, ma esige riposo e cure perché l'emorragia è stata piuttosto forte. Io ho una stanza libera e la metto ben volentieri a sua disposizione». Baran si sentiva stanco fisicamente e moralmente, perciò fu ben contento di accettare l'invito. Quella sera medico e paziente si fecero una buona compagnia, centellinando insieme la vodka. Bravo si ubriacò assai presto e allora si ingolfò con fervore nel suo tema preferito, la Siberia. «Creda, amico mio, non esiste al mondo un paese più bello, più ricco e più suggestivo. Si cammina nell'oro laggiù e intorno vi sono meraviglie su meraviglie. In Siberia non si vive, si sogna. E che brava gente, che gente coraggiosa, fiera, disinteressata. Oh, ci vada, signor Baran, là sì che si vive sul serio. Da noi il caviale costa tanti rubli al chilo, là invece quintali e quintali di caviale vanno alla malora negli affluenti dell'Amur e nessuno che se ne preoccupi. E che ricchezze nelle foreste, sui monti, nei fiumi. Qui la gente si contesta gli avanzi e là i milioni giacciono senza che nessuno pensi a sfruttarli. Là c'è la libertà, il benessere, là, là, è là. È un vero paradiso. Miele a barili, burro a tonnellate, pellicce per niente, selvaggina da non saperne che fare. È la terra. Che terra, amico mio. I contadini non contano neppure il loro bestiame, hanno cavalli e mucche a migliaia, e i pesci nei laghi. L'acqua rigurgita innumerevoli branchi di pesci. Da 4 giorni Olek era ospite di Bravo quando capitò Filippo il Calvo. Dopo aver salutato, disse con finta indifferenza, sottolineata da un vasto sbadiglio: vorrei farmi consigliare da lei, Bravo, a proposito delle mie chiome. Le ungo da tanti anni e non so quanti lozioni ho usato, ma senza nessun risultato. Ci ho speso un patrimonio, detto fra di noi. Che cos'è che posso tentare ancora? E giù un altro sbadiglio. Ma la smetta di impiastricciarli con quelle porcherie, stupidi capelli che non vogliono crescere su una testa così saggia. E Filippo fece una faccia afflitta. Ma come si fa a vivere senza capelli? La gente ti ride dietro. Eppure guardi la rana, non ha un solo pelo e vive benone per 100 anni senza suscitare l'ilarità di nessuno. Anch'io, come vede, non posso certo vantare molti ricciolini, ma non me ne preoccupo affatto. Sarebbe diverso se si trattasse di gambe, di braccia o di occhi. Eh già, ammise Filippo, ma da che cosa dipende l'andare in piazza? Il sangue, sempre il sangue, non affluisce abbastanza al cuoio capelluto, le radici si disseccano, non c'è più nulla da fare. In principio si poteva ancora rimediare massaggiandolo con l'alcol, oppure con il petrolio, oppure lavandoli con la camomilla, bagnandoli ogni tanto con una soluzione di sale da cucina. Ma adesso, inutile pensarci, nessun unguento o lozione può farle ricrescere le chiome, caro signore. Otto, chi si vede? Disse Filippo, stupito di vedere Baran che entrava in quel momento nella stanza e gli si avvicinava per salutarlo. Ma che cosa ti sei fatto? Aggiunse, sbadigliando per attenuare l'impressione che la sua domanda indiscreta poteva aver fatto su Baran. Sai che c'è il signorino che ti cerca disperatamente da 2 giorni, non sa dove trovarti. Signorino era il nomignolo che i dritti avevano appioppato agli Yan. Ma perché non ti fai più vedere? Chiese ancora Filippo, sbirciando il braccio fasciato di Olek. Ma mi son fatto male, rispose evasivamente Olek. E il babbo qua mi metterà a posto in un batter d'occhio. Beh, scusa, ma perché non ti curi a casa? Hai forse litigato con la ragazza? Già. Non dire ad altri che al signorino che mi trovo qui. Anzi, fammi il piacere di dirgli questo, di dargli questo gingillo e pregalo di venderlo e di portarmi il denaro qui, da Bravo. Porse a Filippo l'anello col rubino che aveva regalato a Paolinka e poi portato via a Tolus. Infatti, Yan, a cui Pavka aveva più volte chiesto notizie di Baran, da qualche giorno era in giro alla ricerca dell'amico. Si ricordò di ciò che Olek gli aveva detto un tempo, dopo che egli era tornato con Ignazio dall'impresa, ed era preoccupato per la sua sorte. Fece il giro di tutti i covi chiedendo di lui e infine Kasik lo informò che Filippo aveva per lui un'imbasciata da parte di Baran. Allora si mise alla caccia di Filippo e lo pescò finalmente dalla zippa. Filippo gli consegnò l'anello e gli disse dove si trovava Olek, raccomandandogli di non rivelarlo a nessuno. Era già sera inoltrata, senza indugio Yan si recò da Bravo, dove trovò Baran davanti a una bottiglia di vodka. Appena il ragazzo entrò, il medico andò nella stanza attigua per dar modo ai due amici di parlare liberamente. Prima di tutto Yan restituì l'anello a Baran. «Perché non l'hai venduto?» «Beh, non era affatto il caso», rispose Yan tirando fuori di tasca un pacchetto di banconote. «Non è che una piccola parte di tutti quelli che ho guadagnati con l'ultimo affare. Prendi quel che vuoi. Mi hai aiutato tante volte quando avevo bisogno e lascia adesso che ti sia utile anch'io». Yan si accorse che Baran esitava e perciò utilizzò una frase che aveva sentito dire tante volte dai ladri. «Un dritto può accettare denaro da un dritto, ma mai da un merlo. Ai merli lo si ruba. Su, prendi, ti porterà fortuna, vedrai». Baran posò la mano sulla spalla di Yan. «E va bene. Spero di far presto qualcosa di buono e di restituirteli». Accettò 2000 rubli. Non sapeva che cosa avrebbe fatto di una somma così ingente, ma non gli piaceva restare a corto di quattrini. aveva il pregiudizio che il denaro attira il denaro e che la bolletta porta sempre guai maggiori con sé. C'è Paolinka che ha chiesto varie volte di te, disse a un certo punto Jan. Ah sì? Fece Baran cascandolo alle nuvole. Beh, gli ho detto che non sapevo dove fossi. Continua pure a risponderle così. Non tornerai più da lei, voglio dire, a casa, si corresse Jan, comprendendo che ogni allusione a Pavka faceva male ad Oleg. La mia casa è quella che ha le sbarre alle finestre, e la mia amante, eccola qui in saccoccia, e palpò con la mano la rivoltella. Tacque un attimo, poi disse, piano piano, come a se stesso. Un ladro non dovrebbe mai mettersi assieme ad una merla. O lo tradirà, o lo manderà in galera, o gli succhierà il sangue come una mignatta. E questi erano Ad Inferna con il brano Under My Skin. Ora si ripassa alla controinformazione, la controinformazione di oggi è molto basata sulla Grecia, lo sciopero della fame sia di Nikos ma anche dei suoi altri tre coimputati, e per l'appunto andiamo a leggere un testo dei due suoi coimputati, i due compagni Yannis Mihailidis, una lettera di Yannis Mihailidis in sciopero della fame, anche lui in ospedale. Allora, ho scritto queste righe per esprimere quanto sia stato toccato dall'ampia e polimorfa attività di solidarietà dei compagni fuori dalle mura della prigione. Non solo perché la sua estensione, immaginazione, organizzazione, coordinamento, tenacità ed aggressività hanno superato di gran lunga le mie aspettative, sapendo che significativi edifici dello Stato e del Capitale, stazioni radio e televisive, sono stati occupati, sono stati organizzati presidi e dimostrazioni nelle principali città del territorio, ed attacchi alle forze della repressione, come altri attacchi insorgenti di varia natura si sono verificati. Ma anche perché è quello che rompe la solitudine della mia cella e mi fa sorridere, perché mercoledì notte non ero in prigione, ero tra voi e sentivo il calore delle barricate in fiamme. Perché comunque finisca, la stessa esistenza di questo fronte di lotta è una vittoria in se stessa, sia per la prospettiva immediata di questa lotta che per l'eredità che si lascia dietro. So benissimo che migliaia di compagni coinvolti in questa battaglia che Nikos ha iniziato con molte preoccupazioni ma tanta determinazione hanno tra di loro, ma anche con noi, idee e pratiche assai differenti. Tuttavia l'avanzare scaturisce. E questo è l'esatto significato della solidarietà anarchica: connette senza rendere identici, unisce senza omogenizzare, e quando si tratta di una solidarietà orientata sull'azione funziona. Ora che i media di inganno di massa affermano che, per quanto continui lo sciopero della fame, minaccia la sicurezza nazionale, ho capito che nessuna lotta si perde e gli spazi lasciati ai pensieri frantumati della disperazione provocati dalla prolungata inattività dovuta alla carcerazione si colorano di tinte significative. Di nuovo l'insurrezione è sempre attuale. I nostri sogni diventeranno i loro incubi, l'anarchia combattiva si è risvegliata e sta ruggendo. Nulla è finito, tutto continua. Solidarietà agli arrestati degli scontri di martedì, a Nikos, fratello, rimani forte, fin qui hai distribuito le loro celebrazioni piuttosto bene, tu non stai retrocedendo, così dovranno farlo loro. Sarò al tuo fianco fino alla vittoria finale. Ad Atanasiu, ministro della giustizia, ho molta fame, se tu uccidi Nikos la tua gola sarà l'unica cosa buona da mangiare per me. Yannis Mihailidis. Sì, Radioazione sottolinea che la solidarietà che è venuta, diciamo, a corollario dell'azione di Nikos e degli altri compagni carcerati è stata effettiva, una solidarietà d'azione, una solidarietà che non solo ha visto atti singoli ma anche atti di massa radicali che hanno messo a ferro e fuoco Atene. Sì, c'è stata un po' di solidarietà un po' tutto il mondo, nella stessa Grecia, un po' per il fatto legato all'anniversario della morte di Alexis Grigoropoulos, che tra l'altro era amico di Nikos Romanos, e un po' per il fatto dello sciopero della fame portato per tanti giorni avanti. Oggi era il 31esimo giorno di sciopero della fame di Nikos. Comunque, bene o male, dopo un po' di separazione sulle varie vedute, comunque su certi temi importanti e urgenti, sono tornati tutti quanti insieme. E si è visto nelle manifestazioni del 6 dicembre e si è visto come sono finite le manifestazioni, ma di questo ne parleremo dopo. Facciamo un resoconto delle manifestazioni che ci sono state il 6 dicembre. Ora ci ascoltiamo il brano dei Psycho Pomps, il brano è Gold Sheet, e poi dopo si ritorna qui e si ritorna con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. L'amore trova i grimaldelli adatti per penetrare nei cuori. La vita di Jan era diventata quanto mai avventurosa. Egli aveva oramai molto denaro, si vestiva con ricercatezza e curava la propria persona. Maruscia Lobova, accorgendosi della vanità del ragazzo, continuava a lusingarlo per trattenerlo vicino a sé. Jan non era capace di amare fisicamente una sola donna. Tutte quelle che lo colpivano per la loro bellezza lo attiravano egualmente, e in ognuna trovava qualcosa di interessante che eccitava la sua immaginazione. Espertissima in maniera erotica, Maruscia si spingeva nei rapporti sessuali fino alle più pervertite e libidinose raffinatezze. Maruscia aveva deciso di dominare i suoi sensi e di diventargli indispensabile. Dopo di me, dopo i miei amplessi, ogni altra donna gli deve sembrare noiosa. Ma le parti erano capovolte ora. Prima era Maruscia che mostrava più spavalderia e amava farsi vedere nuda per eccitare il giovane timide ed inesperto. Ora Jan ostentava la più assoluta indifferenza di fronte a lei, passeggiava in costume adamitico per la stanza, e Maruscia invece diventava sempre più gelosa delle sue nudità. Capiva che Jan in fondo non l'amava e perciò non voleva diventare per lui uno stucchevole luogo comune. Sapeva per esperienza che se un uomo non nutre un sentimento profondo per una donna, l'appagamento dei sensi porta con sé inevitabilmente l'indifferenza e persino la ripugnanza. Jan aveva tratto il massimo profitto dalla sua relazione con Maruscia, la quale aveva contribuito moltissimo ad allargare la sua conoscenza della vita e degli uomini. Egli era per natura un ragazzo intelligente ed avido di sapere, e la Lobova era una donna di grande talento e di vaste cognizioni. Gli aveva perfino insegnato a vestirsi con ricercatezza e gli aveva trovato la pettinatura più adatta al suo tipo. Gli raccontava tutto delle donne. A un certo momento egli si rese conto che la donna doveva trovarsi in difficili condizioni finanziarie, perché aveva perso molte lezioni di francese, perché era venuto di moda il tedesco e anche la biblioteca era stata chiusa. Un giorno lo zio Zardon chiamò Jan in un angolo del cortile e aprì un involto che aveva in mano. «Guarda che meraviglia!» disse, mostrando a Jan alcuni capi di finissima biancheria di seta ricamata a mano. «La contessa!» e ammiccò verso l'alloggio di Maruscia. «Deve trovarsi in cattive acque prima che Lenin e Trotsky vengano in suo aiuto. Addio, camicie e mutandine!» «È roba della Lobova?» «Già! Ma ora la indosserà la moglie di qualche commissario. Non stavano mica male le proletarie dei tempi zaristi, eh?» Con un gesto da buffone, lo zio sventolò per aria un paio di mutandine. «Ora vado sulla piazza a gridare: ehi, compagni, ehi, camerati, raccoglietevi sotto questa bandiera. Posto, ce n'è per tutti!» «Zio, smettila di fare l'asino!» lo zittì Jan irritato. «Oh, bella! O forse che anche tu, moccioso, preghi Dio al suono dell'Internazionale?» «Non prego affatto, perché non ho tanti peccati come te sulla coscienza, ma ora vorrei che mi lasciassi parlare per un momento.» Ti lascio, su via, sputa fuori. La compro io questa biancheria.» «E per far cosa? Per annusarla o leccarla o forse per metterla in cornice?» «Personalmente non ti può servire perché non ha la spaccatura davanti. Invecchiando ribambisce a vista d'occhio, caro zio.» «Si capisce, non tengo le mutande da donna sotto il guanciale per eccitarmi, o del resto sarebbe inutile. Ma io voglio comprare questa roba per la mia ragazza, capisci? Devi dimenticare il nipotino che veniva con te a curiosare alla finestra del bagno turco. Adesso io le belle donne me le porto a letto, tu, zio, hai preso questa roba per venderla e io sono il primo acquirente che si presenta. Si tratta dunque di sapere quanto vuoi e basta.» «Oibò! Sei diventato così ricco da poter comprare sta roba?» chiese meravigliato Filippo Zardon. «È così, se non ti dispiace, e se continui a sfottermi ti dirò qualcosa di brutto.» «Accidenti, ragazzo mio, lascia che ti abbracci, questo sì che si chiama un cliente, beh!» Prenditi queste delizie, caro mio, e caccia 1000 rubli, sogghignò Filippo. Jan, con gesto solenne, tirò fuori di tasca un voluminoso portafoglio e, mettendo bene in vista i biglietti di banca di cui rigurgitava, contò 1500 rubli. Toh! Aggiungo altri 500 rubli per la compagnia. Lo zio si affrettò a impadronirsi del denaro e si mise a declamare in tono buffonesco: «Mille grazie a vostra signoria per la vostra generosità. Mi raccomando, alla vostra memoria, possiedo un paio di brache che a suo tempo appartenevano a un rabbino ormai defunto. Una vera antichità, roba da intenditori. Forse vi interessa, messere?» «Grazie. Tienitele per i tuoi funerali. Il diavolo ti sta cercando già da un pezzo, zio. Dice che all'inferno si annoiano tutti senza di te. Scherzi a parte, fammi il piacere di non dir nulla alla Lobova. Non voglio che sappia che sono stato io a comprare la sua biancheria.» «Oh, al contrario, io lo racconterò a tutti, metterò affissi per le strade dei manifesti e farò anche un annuncio sui giornali. Chissà quanta gente verrà a venderti le sue mutande. Un cliente simile non si trova a tutti gli angoli di strada.» Continuando a fare il buffone, lo zio andò dalla Lobova per consegnarle il denaro ricavato dalla vendita. Jan pensò con tristezza che fino a quel momento non aveva mai fatto nulla per aiutare Maruscia, che pure era stata così generosa con lui. Ora che ci pensava, il vino e le cornie erano sparite dalla sua tavola da qualche tempo ed egli non aveva compreso nulla. L'indomani si recò in città e comprò un pacco di roba da mangiare e parecchie bottiglie di vino che egli scelse senza intendersene affatto. Tornato a casa, portò il pacco in cantina e, mentre attraversava il cortile, si imbatté in Maruscia, che sembrava di ottimo umore. «Vieni da me stasera? Ti preparerò una bella cenetta», ella gli disse subito. «Con piacere, ma ho due condizioni.» «Oh, e quale?» «Dovrai accettare un regaluccio ed esaudire una mia preghiera.» «Oh, bene, bene», sorrise Maruscia. Quella sera, quando entrò dalla Lobova, vide sul tavolo paste, frutta, cioccolattini ed una bottiglia di liquore. Maruscia sapeva che al giovane piacevano i dolci. La macchinetta del caffè era sul fuoco. «Finalmente», disse lei, «siediti, il caffè sarà subito pronto.» «Prima vado a prenderti il mio regalo», disse Jan. «Sarò qui in 2 secondi. Tornò in effetti dopo pochi minuti e depose sul tavolo un grosso pacco che aprì, tirandone fuori bottiglie di vino, scatole di sardine, formaggini, prosciutto, biscotti e dolciumi vari. «Ma che bambino che sei!» esclamò Maruscia. «Non hai un briciolo di buonsenso. Perché hai comprato tutto quel burro? Andrà male. E poi zitta! Non si criticano i regali. E ora l'altra cosa è apri l'involucro della biancheria. Senti un po', Maruscia. Ti trovi in difficoltà finanziaria e vendi la roba che ti è necessaria e non mi dici nulla. E io ti aiuto a far fuori il tuo denaro e non me ne accorgo neppure. Se non fosse stato per un caso, sarei anche adesso all'oscuro di tutto. Non so dirti come sono mortificato, anche perché negli ultimi mesi ho guadagnato parecchio. Vedevi bene che compravo tanta roba costosa per me e non mi ha mai parlato dei tuoi fastidi. Perché fai così?» Ma Maruscia, invece di rispondere, scoppiò in lacrime. Nessuno degli inquilini, conoscendo la Lobova come una donna energica, spavalda, pronta di parola e all'occorrenza capace anche di menar le mani, avrebbe immaginato che Maruscia fosse capace di piangere così stupidamente, come una bambina. Erano Combi Christ con il brano God Bless. Ora si ritorna alla controinformazione. Ovviamente abbiamo detto prima che per la maggior parte si resta in Grecia, ma dopo diamo anche una notizia che viene da fuori, fuori dalla Grecia, fuori dall'Europa. Allora, diamo queste due breve notizie, uno su degli arresti di due compagni che poi sono stati rilasciati nelle prime ore di venerdì 12 5 dicembre, dopo la chiamata di una spia mentre stavano rubando bottiglie vuote nel cortile di una società di riciclaggio privato. I compagni, una donna e un uomo, sono stati inizialmente trasferiti alla stazione di polizia locale e poi a Gada, agenzia di polizia generale di Attica, dove il pubblico ministero ha emesso un mandato di perquisizione nelle loro case. I poliziotti hanno trovato alcune bottiglie di birra vuote, una tanica di benzina piena di benzina, alcuni petardi, un martello, una fionda, uno spray al pepe e volantini su Nikos Romanos. I compagni sono stati accusati per possesso di ordigni esplosivi, possesso di armi e furto. Il resto della consueta procedura persecutoria ha avuto luogo nel pomeriggio dello stesso giorno, quando i compagni hanno ricevuto un termine di 3 giorni per presentarsi davanti a un pubblico ministero. Sono stati tenuti nel Gada fino ad allora e per poi essere rilasciati lunedì con la misura restrittiva di presentarsi ad una stazione di polizia una volta al mese fino al processo. I nostri pensieri sono con Nikos, rimani forte fratello, solidarios. E questa era la prima notizia. Invece l'altra, quando riguarda le manifestazioni che ci sono state in varie città della Grecia il 6 dicembre, con scontri specialmente a Salonicco e ad Atene, in ricordo di Alexandris Grigoropoulos e in solidarietà con i compagni in sciopero della fame. Dai mezzi di stampa infami si apprende che ieri 6 dicembre in tutta la Grecia ci sono state manifestazioni in ricordo di Alexis Grigoropoulos, ammazzato il 6 dicembre 2008 in piazza Xarchia da miserabili in divisa, e in solidarietà con il compagno Nikos Romanos e gli altri compagni in sciopero della fame in Grecia. In particolare a Salonicchi ad Atene ci sono stati scontri tutta la sera fino a notte inoltrata, ed i mezzi di infamia borghese parlano di 200 arresti. Aspettiamo aggiornamenti dai compagni greci, e intanto, se è vera la notizia degli arresti, solidarietà con i compagni arrestati, forza, solidarietà e complicità a Nikos, Yannis, Dimitris, Andreas in sciopero dalla fame. Questo era un testo di Radioazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Sid con il brano PlayStation City, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Gegen 11 Uhr sind zwei frische Exemplare eingetroffen. Ein junger Mann und eine junge Frau. Gliedmaßen abgetrennt, Eingeweide herausgenommen und Menschenhaut zum Trocknen aufgehängt. We'll be right back. Gesetz seiner Körperwelten, lose Gesetz der Tote mit Silikon plastiniert für die Ewigkeit. Quando arriveranno anche qui i compagni bolscevichi, tutto cambierà e nessuno avrà più bisogno di rubare, tutti avranno lavoro e benessere. Merli o Dritti saranno tutti trattati allo stesso modo, sentenziò solennemente Svoboda, un borsaiolo di Lodz che a suo tempo era stato iscritto al Partito Socialista. Poi, per motivi imprecisati, era stato espulso dal partito e si era ritrovato dietro le sbarre. Là aveva scoperto di avere delle attitudini a fare il ladro e, appena uscito di prigione, aveva cominciato a tenere il sacco ad altri borsaiuoli e a far pratica di grimaldelli e di chiavistelli, finché si era dato decisamente al borseggio di strada. Aveva letto da poco alcuni libelli di propaganda bolscevica e aveva preso subito in grande simpatia quelle idee. E poiché aveva anche una spiccata tendenza a far l'agitatore e il tribuno, non si lasciava mai sfuggire alcuna occasione per tenere un discorsetto di intonazione apologetica. Gian Dente d'Oro ascoltava Svoboda con scetticismo e a un certo punto lo interruppe con la sua frase preferita. «Non far troppo vento, amico, dimmi piuttosto che cos'è che faranno quelli che non hanno forza né salute per lavorare?» Il governo proletario penserà anche a loro, sta tranquillo, non saranno mica i pescecani a decidere delle sorti del popolo, ma i nostri fratelli proletari laggiù. C'è un uomo che chiamano Lenin, perché mentre fuggiva dalla Siberia attraversò a nuoto il più gran fiume del mondo, la Lena, e questo Lenin, dunque, assieme al suo cognato Marx, ha inventato una macchina che dalla legna e dalla paglia tira fuori qualsiasi cibo, anche la salsiccia, chiese Baranno incuriosito. Oh certo, anche il prosciutto, la mortadella e tutta questa roba del genere, rispose fiero Svoboda. Beh, ce l'hai una fotografia di questa macchina mirabolante? Chiese Gian Dente d'Oro con un sorriso sarcastico. Ma Svoboda, senza badare alle frecciate che lo colpivano da ogni parte, proseguì imperterrito nella sua descrizione del paradiso sovietico, del quale personalmente non aveva la più pallida idea. I ladri lo ascoltavano con indifferenza o con ironia. In generale, i delinquenti non si interessano di politica e hanno un cattivo concetto dei comunisti. Alcuni giungono persino ad odiare quei salvatori del proletariato. Le cause di sorto nel 1905 tra i delinquenti professionali e i membri del Partito Socialista a Varsavia e a Lodz. I ladri più anziani parlavano ancora di quei fattacci con la schiuma alla bocca. «Smettila, smettila per favore di buttarci pepe negli occhi», intervenne Rana, un vecchio ladro di Varsavia, interrompendo lo sproloquio di Svoboda. «A noi nessuno ci salverà, né Dio, né lo zar, né gli eroi, come dice la tua internazionale, tantomeno ci salverà un intellettuale, un ladro. Può contare solo su un ladro e basta». Il professore giudicò opportuno di intervenire anche lui nella discussione per non essere da meno degli altri. «Tutto sto comunismo è roba che ha dei grandi sconvenienti, voleva dire inconvenienti, e non resiste ad una sottile indagine critica, e bisogna essere ciechi per non vederlo. Secondo me, chi esalta il bolscevismo lo fa per opportunismo ed è in malafede». Con questa lapidaria dichiarazione il dibattito fu chiuso. Tuttavia, Svoboda non si diede affatto per vinto e ogni volta che gli si presentava occasione si metteva subito a perorare la causa che gli stava tanto a cuore. Erano 2 settimane che Oleg si trascinava di covo in covo. Da alcuni giorni aveva anche perso ogni misura del bere. Di tanto in tanto usciva e andava a fare un colpo notturno in qualche appartamento, ma il braccio, benché la ferita si fosse ormai rimarginata, gli impediva la libertà di movimento. Ma nella vodka, nel lavoro, nella compagnia dei suoi amici, nelle baldorie, valevano a risanare la ferita che Pavka aveva inflitto al suo cuore. Passava le notti insonni, pensando alla sua amante che ancora adorava. nei covi c'erano sempre delle femmine pronte a offrirgli, tutte prostitute, e il ladre cercava ogni espediente per accalappiarlo, perché Oleg piaceva molto alle donne, ma egli non sembrava neppure accorgersene. Un giorno, quando meno se l'aspettava, si imbatté in Pavka per la strada. Avrebbe voluto evitarla, ma la ragazza gli si parò davanti. «Oleg, tesoro mio, ma dove ti sei cacciato? Ti ho cercato per mari e per monti». «Che cosa vuoi da me?» le chiese egli, guardandola fissamente negli occhi. «Che cosa voglio? Ma che domanda è questa? Per poco non sono diventata cieca dal gran piangere, e tu ridi!» Baran non rise, ma aggrottò le sopracciglia. «Ti ho chiesto che cosa vuoi da me?» Due autentiche lacrime brillarono agli angoli degli occhi di Pavka. «Non voglio niente, voglio solo che tu torni a casa, se non vuoi più vivere con me, pazienza, ma non è il modo di separarci questo». La scena cominciava ad attirare l'attenzione dei passanti. Dall'altra parte Baran si sentiva struggere il cuore alla vista delle lacrime della ragazza e disse dunque in fretta: va bene, verrò stasera, vattene ora, la gente ci sta guardando». Dopo quell'incontro Baran girovagò un pezzo per le strade, poi si diresse verso il parco del governatore e sedette su una panchina in riva al fiume. Vi rimase a lungo, fissando l'acqua corrente, incapace di pensare. Intanto Paulinka arrivava a casa, si dava un gran da fare per fare all'amante la migliore accoglienza possibile. La lezione di Shurditz non era stata vana e la figlia si dimostrò una allieva molto intelligente. Preparò una buona cena, mise in ordine l'appartamento, si vestì con cura e andò da un parrucchiere a farsi pettinare. Oleg arrivò verso sera. La guardò con due occhi torvi, pieni di diffidenza. Pavka lo accolse sulla soglia con un entusiastico «Finalmente!» e gli buttò le braccia al collo, ma si accorse subito della freddezza dell'amante. «Oleg, caro mio, perché fai così?» «Lo sai anche tu il perché, Oleg mio!» Pavka giunse le mani come se si accingesse a pregare. «Ti giuro che non vedrò mai più in vita mia quel farabutto, credi Oleg, lo odio, Dio, lo strangolerei con le mie mani se potessi, e tu non vuoi credermi!» Nella voce e nello sguardo di Pavka c'era un tale accento di sincerità e un così evidente odio per il barbiere che Oleg non poté fare a meno di crederle. Tacque per qualche istante e poi disse lentamente: «E va bene, cercherò di dimenticare, torniamo come prima». Paulinka si gettò fra le sue braccia. A Oleg parve che un gran peso gli fosse caduto dalle spalle. Non aveva mai visto Pavka così bella, così affascinante. E durante la cena fu tutta brio e vivacità, continuava a riempirgli il bicchiere ed ella stessa beveva per tenergli compagnia. La cena fu allegra. Né l'uno né l'altra fecero la benché minima allusione al passato. Per la prima volta dopo parecchi giorni Baran si coricò in un letto che odorava di biancheria pulita. Un momento dopo anche Pavka, leggermente brilla, si infilò sotto le lenzuola. «Mi sentivo così triste, così sperduta senza di te, Oleg mio. Che giornate orribili ho passato». Per la prima volta in vita sua Baran si sentì veramente felice. Le rare ombre che ancora vagavano nella sua anima furono ben presto disperse dalle appassionate carezze di cui Pavka lo colmava, e questa volta con la più completa spontaneità. I live for drugs. Freaked out very, very badly. Freaked out on acid. I live for drugs. It's great. It's great. I'm the white rabbit. E questi erano Adhesive Chain for Sedan con il brano My Life with a Thrill Killer Kite. Ora si ripassa l'ultima notizia per oggi di controinformazione e poi dopo ci sarà l'ultima lettura per quanto riguarda Nessuno ci salva. Ultima notizia, si cambia territorio, si va in Cile, dove rileggiamo una notizia che un testo che abbiamo provato a leggere due volte la settimana scorsa e che purtroppo per un problema o per un altro è uscito, cioè non si sentiva nulla. Allora, questo venerdì 28 novembre abbiamo deciso di attaccare un mezzo di trasporto pubblico con il fine di chiamare un dicembre nero di azioni e anarchico Sebastian Oveslucci, assassinato durante un fallito esproprio in banca il giorno 11 dicembre 2013. Una volta che il mezzo era in fiamme, abbiamo fatto esplodere fuochi d'artificio per far sì che la nostra rabbia e la nostra ribellione brillasse più forte. Questa azione è fatta anche in solidarietà con la compagna Tamara Sol Vergara, che è attualmente sequestrata nelle mani del potere. Questo è il nostro modo di dire che nessuno dei nostri morti e prigionieri sono dimenticati, che per ogni colpo del nemico la rabbia si moltiplica e si esprime in azioni precise contro il potere. Nei mezzi di comunicazione borghesi questa azione è legata all'inizio di Telethon, in realtà il motivo non era questo ovviamente, ma in ogni caso mostriamo il nostro ripudio a chi commercia con la disgrazia degli altri. Questo è il nostro contributo al conteggio ufficiale di questa festa di ipocrisia. Sottolineiamo inoltre che stiamo vivendo momenti di grande tensione, dove tre persone sono state arrestate per il loro presunto coinvolgimento per un ordigno esploso nel subcentro di Escuela Militar. Sebbene noi crediamo che l'azione è poco strategica ed è più un passo indietro che un contributo, non smetteremo di solidarizzare con uno dei più duri processi carcerari degli ultimi anni. Come antiautoritari crediamo nella distruzione della società carceraria e per questo ricordiamo Nathalie, Juan e Guillermo, così come Anse Neymar, Monica Caballero, Francisco Solar, Juan Alice Vega, Carlos Guidieres Chidileo, Marcelo Villarroel e Freddy Fuentevilla. Non dimentichiamo i due veciafe che sono stati uccisi negli ultimi tempi nelle zone di conflitto a sud, José Quintriqueo e Victor Mendoza Collio. Memoria e lotta nel loro nome. Ricordiamo inoltre che questa settimana sono stati arrestati quattro giovani per possesso di un ordigno incendiario e disordini in strada. Inviamo loro un affettuoso abbraccio di solidarietà e di prendere tutte le precauzioni e le misure di sicurezza nelle azioni per evitare i colpi del nemico. Vale la pena di precisare che per noi il trasporto pubblico è uno dei modi con cui lo Stato e il capitale permettono agli sfruttati e consumati di questo sistema di raggiungere i loro posti di lavoro alienante per adempiere agli obblighi imposti da un sistema che cerca di sottomettere fino all'ultimo secondo le nostre vite. Bruciare un bus significa mettere subito in discussione la logica della struttura. Significa sabotare la circolazione di merce umana, interrompere il meccanismo totalizzante della città. La nostra lotta è per la vita, la libertà e la terra, contro il meccanismo di fantasia che il capitale e lo spettacolo ci hanno imposto come stile di vita, contro l'avanzata del progresso che distrugge tutto il bello e tutto il libero. Invitiamo ad un dicembre nero in memoria del compagno Sebastian Oveslucci. Solidarietà e libertà per Tamara Sol Vergara, Anse Neymar, Monica Caballero e Francisco Solar. Forza a un caloroso abbraccio ai compagni che hanno attaccato la PDE, Maurizio Morales e Sebastiano Veslucci presenti. Questo è il testo di rivendicazione dell'attacco al bus della Transantiago, che non ha firma, c'è solo un testo di rivendicazione, quindi resta nell'anonimato per la gioia di qualcuno, però comunque i riferimenti nell'attacco ci sono, quindi va bene l'anonimato quando ci sono i riferimenti dell'attacco, meno va meno quando ci sono le azioni e non sono rivendicate in solidarietà o per qualsiasi altro motivo. Allora, questo era l'ultimo pezzo per quanto riguarda la controinformazione di oggi. Ora ci ascoltiamo un brano di Naked RPM con il brano Warped e poi dopo si torna qui con l'ultima lettura di Nessuno ci salva di Sergius. macchinario. Wow. La festa dei fiori. Iniziamo oggi mercoledì 10 dicembre. Non mancate di sentire la fine della festa dei fiori il lunedì 15 dicembre. L'aristocrazia della Komarovka era costituita da autentici dritti, ma le strade erano sempre state il dominio dei lazzaroni, gli infimi della mala. Tra questi i dritti esisteva un antagonismo implacabile. In genere, la marmaia dei dilettanti temeva i professionisti, benché questi tenessero generalmente un contegno tranquillo e fossero assai meno numerosi di loro. Un vero dritto disprezzava la suburra e la feccia che vi brulicava, evitando di avere rapporti con essa e cercando anzi di mantenere tra le due categorie una distanza piena di disdegno. Questa marmaia costituiva per i ladri professionali un elemento pericoloso oltre che odioso. Infatti i lazzaroni Si mettevano spesso al servizio della polizia come spie, compromettevano l'esito di imprese ideate e preparate da ladri molto in gamba e rendevano malfamate certe strade aggredendo i passanti e facendovi scoppiare ogni tanto delle risse selvagge. I lazzaroni dal canto loro invece odiavano i dritti per la loro dignità professionale, per la genialità e il coraggio che dimostravano nelle loro gesta. Invidiavano i loro portafogli pieni e quell'aria di sprezzante superiorità che ostentavano quando si trovavano a passare nei loro quartieri. Anche le ragazze preferivano come amante un ladro a un lazzarone. I dritti erano rispettati dovunque si trovassero, mentre il lazzarone era appena tollerato perfino nella propria famiglia, perché oltre a non essere di alcun profitto, non faceva che procurare a tutti un'infinità di grattacapi. Uno poteva noleggiare per una bottiglia di vodka un lazzarone quando voleva e gli serviva per dare una lezioncina a qualcuno, o lo voleva spedire addirittura all'altro mondo con un colpo ben assestato o con una coltellata. Un ladro non metteva mai mano a simili imprese brigantesche. Le sue qualità fondamentali erano l'audacia e la destrezza. Quelle del lazzarone erano l'improntitudine e la turbolenza. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture,